Siamo in collegamento telefonico con Girolamo De Michele, che è uno scrittore e che ha pubblicato sul Manifesto di un paio di settimane fa, precisamente sabato 22 ottobre. Appunto, c'erano vari articoli, fra cui anche il tuo, che in particolare si intitolava La forma corteo è finita, ce ne vuole un'altra. Vuoi raccontarci, al di là insomma della stringatezza dell'articolo, che come nasce insomma questo articolo in particolare, questa riflessione, e che cosa insomma intendevi dire al di là insomma delle poche righe che sono state scritte sul Manifesto? Allora, l'articolo nasce come riassunto proprio ai fini della discussione che si è sviluppata sulle pagine del Manifesto, di un intervento più lungo, più disteso, che avevo fatto sul blog dei Wuming, Jap, che sin dal pomeriggio del 15 ottobre si è messo a servizio dei movimenti, diventando un luogo di discussione, ed è una discussione che secondo me ha trovato immediatamente la giusta impostazione, e cioè non si condanna a priori nessuno, si cerca di capire cosa sta succedendo. In ogni caso, a prioristicamente c'è e non può non esserci la solidarietà con i compagni che in questo momento si stanno battendo a Roma in piazza San Giovanni, e questa impostazione che si è poi diffusa, la discussione è stata interessantissima ed è stata rilanciata in tanti altri siti e poi sulla carta stampata per oltre una settimana, ha immediatamente fatto da argine a un altro tipo di impostazione che è scattata sin dal giorno dopo anche all'interno di componenti del Manifesto, del movimento, che tendeva a individuare i buoni e i cattivi all'interno di quella giornata. Laddove, secondo me, posto che non sta a noi del movimento farci giudici né censori, né tantomeno carabinieri, e quindi stabilire chi deve e chi non deve scendere in piazza, eccetera, secondo me c'erano una serie di problemi in tutte le componenti della manifestazione. Il principale, questa piattaforma era al tempo stesso radicale nelle intenzioni, ma poi svaporava nelle richieste effettive. Se ti agiti per una settimana davanti alle banche, individuando giustamente le banche come una delle cause prime della crisi, non puoi poi non proporre proposte radicali nei confronti della banca, come ad esempio il diritto al default, altrimenti legittimi una posizione che finisce col dire l'unica risposta da dare alle banche è scaricare la vetrina, rompere la vetrina della banca, almeno scarico un po' di energia. È chiaro che non fai niente alla Goldman Sachs rompendo una vetrina, però è altrettanto vero che non fai niente se neanche organizzando delle pantomime davanti alle banche, se poi non assumi un programma radicale. Sicuramente da parte di alcuni c'era un tentativo di ergersi a rappresentanti del movimento e quindi ricondurre un movimento di indignati che è ancora in fieri, in via nascendo, nell'alveo della rappresentazione politica, per potersela poi spendere al tavolo di trattative più o meno coperte con queste quelle forze politiche. E questo vuol dire che quando si entra nell'ambito delle trattative politiche si cominciano a usare parole ambigue, indeterminate, per paura di dire cose troppo chiare che non possono poi essere spese al tavolo appunto degli accordi. Allora, se io comincio a mediare all'interno del movimento con chi è un passo alla mia destra e questo sta mediando con chi ha un passo alla sua destra, si parte da, per non nasconderci dietro un dito, si parte da Uniti per l'Alternativa e si arriva fino a Renzi, viste le aperture che Vendola ha fatto sia a Monti che a Renzi, e questo non mi sta bene. È chiaro che è un problema reale per me, che ho anche una certa tradizione di militanza. Questa forma di lotta che si è manifestata non soltanto in questo corteo, e cioè ci sono delle modalità di antagonismo che si riducono semplicemente nell'azione dimostrativa, come se si fosse persa la trasmissione della storia delle lotte, dei metodi di lotta, del fatto che le lotte sono spesso di lunga durata e quindi richiedono delle strategie. A volte nei cortei ci sono delle componenti del movimento che hanno degli atteggiamenti che ricordano quasi le modalità da stadio: vado, faccio il botto, porto a casa la pelle, mi è andata bene. Questo per me non è un elemento da condannare, tantomeno da etichettare come fascismo o altro, è un problema, cioè il mio problema è come ripristinare questo filo con questi compagni più giovani e come reintrodurre l'idea che le lotte devono avere un lungo respiro e svolgersi attraverso un lungo periodo. Quindi il 15 ottobre ha posto molti problemi, secondo me è salutare che li ponesse. Ultima considerazione, credo di aver riassunto quindi così quello che dicevo, io, ma non solo io, metto in discussione la forma corteo, nel senso che credo che sia inutile continuare a pensare alle scadenze come la grande scadenza ultimativa, con la data nazionale che si svolge necessariamente a Roma, con un corteo che deve insistere su certi luoghi simbolici chiamati metaforicamente palazzi del potere, come se il potere reale poi fosse davvero domiciliato a Montecitorio piuttosto che al Quirinale, sia perché ha un potere diffuso capillare e bisogna rispondere con una occupazione capillare diffusa, occupare ovunque, non accamparsi davanti a Montecitorio, ecco. Ma anche perché la forma corteo è una forma tecnicamente ingestibile, sono molti anni che non si riesce a governare la forma corteo, è inutile nascondersi dietro un dito, tutte le volte che ci sarà una scadenza proclamata con questi toni e con questa enfasi ci sarà il rischio che le cose vadano a finire come sono andate a finire il 15 ottobre o il 14 dicembre, cioè con esiti non soddisfacenti rispetto a quello previsto. È inutile stracciarsi le vesti ogni volta, bisogna prendere atto del fatto che probabilmente questa forma di manifestazione ha fatto il suo tempo e credo che sia stato più importante il movimento delle donne che il 13 febbraio ha portato 1 milione di donne nelle piazze di tutta Italia piuttosto che portarne 100.000 a Roma. Così anche per andare proprio sul concreto e su quello che magari per te potrebbe essere una proposta così di discussione riguardo a questo discorso che stavamo facendo, anche sulla base insomma di tutto quello che è stata poi l'ondata diciamo repressiva e anche per certi versi no, le chiusure di spazi proprio di movimento. Pensiamo, ti faccio un esempio, la chiusura da parte del sindaco di Roma no, della possibilità di manifestare con un'ordinanza diciamo cossighiana per certi versi nella città di Roma. Quindi anche rispetto diciamo a questo tipo di situazioni nelle quali ci si viene poi a trovare, quali possono essere secondo te gli esiti dal punto di vista del movimento, anche dal punto di vista diciamo di quello che dovremmo secondo te andare a discutere riguarda appunto le possibilità di manifestare o comunque di esprimere il proprio disaccordo, la propria voglia di cambiare lo stato di cose presenti? Beh, intanto è palese che non si chiudono gli spazi di libertà e quando ce li chiudono questi spazi vanno ripresi. Questo è evidente, queste cose le pensavo ai tempi di Cossiga che tu giustamente citi. Non credo sia cambiato nulla da questo punto di vista. Si tratta di farlo con una intelligenza che eviti di riproporre quel tipo di risposta che chi vieta le manifestazioni si attende. E quindi, ecco, ad esempio, diffondersi per le città, manifestare in molti luoghi anche all'interno della stessa città, differenziare le strategie. Quando io prima parlavo del 14 dicembre, facevo all'epoca, ricordo, e lo feci presente nelle discussioni, che mentre il corteo degli studenti puntava verso il Parlamento, dal punto di vista etico era un'esigenza anche condivisibile, però in questo modo incanalando la protesta in un unico obiettivo, in un'unica direzione, in altre città invece la protesta assumeva delle forme diffuse che poi alla termine della giornata portavano ad esempio all'occupazione, quindi alla liberazione di spazi conquistati dal movimento. Ecco, occupare dei luoghi vuoti e trasformarli in luoghi di incontro per il movimento, ad esempio, ora come ora, mi sembra una pratica molto più utile, perché questo movimento ha bisogno di discutere e di confrontarsi. Al tempo stesso io chiederei, per quel che può pesare il mio parere, di abolire gli atteggiamenti identitari, ma abolirli per davvero. Cioè, credo che tutte le realtà di movimento, le realtà organizzate, il cui ruolo io non sottovaluto, debbano in questo momento trasformarsi in agenzie di servizio all'interno del movimento e non giocare una specie di risico per l'egemonia. Ecco, mettere le proprie capacità, i propri spazi al servizio di un movimento di indignati che sta ancora nascendo, ripeto, e non basta fotocopiare modalità spagnole o americane che hanno un loro specifico e pensare che la loro riproduzione papale in Italia produrrà automaticamente un movimento come quello degli indignati in Spagna o in America. C'è un movimento che ha bisogno di trovare le proprie specificità. Questo movimento non può essere costretto nella sfera della rappresentanza politica, non può essere coinvolto in giochi o trattative, deve far proprio tra l'altro una lettura molto radicale di quello che sta avvenendo in questi giorni, perché è fuori di discussione che sta passando un messaggio che dice tutti i problemi sono finiti perché va via Berlusconi, adesso arriva il salvatore della patria. Credo che sia del tutto evidente che questo salvatore della patria è il salvatore delle banche, è un uomo delle banche, e io ieri ho partecipato a una manifestazione molto combattiva a Bologna in cui era chiaro dalla testa alla coda del corteo che non ci sarà alcuna compromissione né alcuna degnazione nei confronti di Monti e delle sue politiche. E del resto Monti era quello che a gennaio dichiarava che per fortuna in Italia abbiamo avuto le riforme di Gelmini e Marchionne che ci hanno già indicato una strada, tra l'altro riconoscendo implicitamente che le riforme del lavoro erano state scritte da Marchionne e poi firmate da Brunetta e Sacconi. Ecco, questo è Mario Monti. Dobbiamo organizzare delle forme di resistenza, perché quello che succederà nei prossimi mesi, prima o dopo, con o senza elezioni, sarà la svendita dei beni comuni attraverso le cosiddette liberalizzazioni e privatizzazioni. Questo è l'obiettivo primario di Monti, questo è quello che Monti promette alla finanza internazionale, e appunto atteggiamenti repressivi come quelli di Alemanno, ma non soltanto di Alemanno, servono soltanto a fare servizio d'ordine attorno alla politica che parte dalle grandi banche internazionali e trovi in Monti il suo rappresentante.